Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, oggi siamo felici di riunire il quartetto Allegro quartetto, direi. Quindi bentornata la nostra nutrizionista preferita, Francesca Deriu. Ciao, buona domenica a tutti. E al coach Fabio Vedana. Ciao a tutti. Allora, grande richiesta, accorciamo un po' il tiro e anche le distanze per rispondere anche un po' alle domande, alle richieste dei nostri ascoltatori. Le maratone primaverili sono ancora lontane, più o meno, diciamo così, e guardiamo quindi anche alle gare più brevi come una 10 km o una 12 km. C'è infatti un momento in cui in chi corre scatta qualcosa, non in tutti, ma in molti, scatta la voglia di mettersi un po' in gioco, che è un po' l'essenza di questo programma che si chiama Personal Best, non perché siamo fanatici di tempi al chilometro, ma perché quando ci mettiamo in gioco scatta un po' la sfida con noi stessi e non solo, ed è quello che ci piace, qualsiasi sia il livello della sfida. Insomma, fatta la lunga premessa, Fabio, quindi ci siamo abituati a fare la nostra corsetta al parco di qualche chilometro, ora però abbiamo voglia di indossare un pettorale e fare qualche gara, oppure le bellissime staffette che ci aspetteranno per la maratona di Milano o Roma. Da cosa partiamo? Partiamo da cominciare a correre con un po' più di continuità, perché l'aspetto più importante per riuscire a concludere un 10 km, un 12 km, anche fino a 15 km, è avere un minimo di continuità nell'allenamento e quindi riuscire a dare da adesso fino ad aprile, quindi fino alla primavera, un timing preciso negli allenamenti. Preciso vuol dire che non serve correre tre volte l'ultima settimana prima dell'evento, ma serve da adesso, che siamo a inizio dell'anno, riuscire a mettere almeno due, se non tre, corse da 30 fino ad arrivare all'ora a settimana. Quindi l'aspetto più importante è ritrovarsi il tempo all'interno della propria agenda e metterlo in maniera continuativa fino alla gara del debutto, perché questo è l'aspetto più importante, perché ci permette di creare tutti quegli adattamenti che ci permetteranno di affrontare la 10 km non come la salita all'Everest ma invece come la salita alla montagnetta di San Siro, cioè quindi una cosa realizzabile. Francesca, probabilmente abbiamo iniziato a correre, come abbiamo detto più volte, per perdere qualche chilo, ma dopo un mese o due gli effetti ancora non si vedono. Cosa classico. Dobbiamo cambiare? Perché tanti ce lo chiedono, sì, no? Ma sì. Non sono dimagrito. Secondo me la nutrizionista. Allora, sicuramente se abbiamo iniziato a correre con l'obiettivo anche di perdere peso, avremmo dovuto anche fare qualche modifica all'alimentazione, perché se inizio a correre magari mangio di più, è probabile che non perdo peso. Poi c'è anche chi inizia a correre, mangia di più e aumenta di peso. Però facciamo finta che non sia così. È vero che l'attenzione all'alimentazione è importante, perché effettivamente se dal niente inizio a fare attività fisica è probabile che mi venga più fame. Quindi bilanciare al meglio i pasti, recuperare soprattutto se si fanno allenamenti intensi, quindi parlo non di una corsa ogni tanto ma magari quelle due o tre volte a settimana, è importante recuperare e mangiare bene il giorno dell'allenamento e anche quelli in cui non ci si allena, perché appunto si può correre il rischio di alla fine di mangiare male, mangiare di più, e quindi diciamo che il nostro organismo non è stimolato alla perdita di grasso. Quindi, così come io dico sempre, non esiste dieta che sia efficace a lungo se non si fa attività fisica, dico anche il contrario, che quando si fa attività fisica e anche quando non si fa è importantissimo avere un'attenzione all'alimentazione. Quindi non so, ci viene più fame quando finiamo di correre o comunque magari nei giorni successivi, cos'è che ci consigli di mangiare? Beh, sicuramente fare uno spuntino. Allora, prima di tutto mangiare adeguatamente prima, no? Quindi per esempio se devo andare a fare un allenamento in tarda serata, fare una giusta colazione, magari uno o due spuntini, quindi uno a metà mattina, uno a metà pomeriggio, e un pranzo comunque che sia bilanciato, perché magari salto il pranzo, poi vado a correre, poi torno dalla corsa e mangio tutto il quello divano. Che trovo, esatto, esattamente, poi vado a dormire, e quello non è sì, non è la scelta ideale, diciamo. Però è un po' un cambiamento di stile di vita, no? Come diciamo spesso, certo. No? Quello di iniziare a fare un'attività fisica, poi. Esattamente, quando si inizia a fare un'attività fisica è, come dire, un buon proposito. Quindi aumento l'attività, quindi il mio dispendio energetico, voglio fare una vita più sana, quindi voglio anche mangiare meglio, voglio stare meglio. Fabio, infatti, insomma, la differenza tra chi corre fine a se stesso, quindi quando si ritaglia un po' di tempo, e chi vuole raggiungere un obiettivo, è quello di dar appunto continuità, come dicevi tu, quindi trovare sempre dello spazio per correre in qualche modo. Sì, sì, e questo è il primo requisito. È la differenza, diciamo, tra chi corre solo d'estate e chi sta... Okay. E su cosa ci concentriamo, insomma, per allenare una gara di 10 km? Dobbiamo alternare gli allenamenti come facciamo per la maratona? Oppure? Sì, sicuramente se io ho l'ambizione di fare il mio personal best, quindi ho già corso un 10 km e voglio cercare di fare il tempo migliore sulla 10 km primaverile, devo assolutamente, se corro tre volte, come abbiamo detto, dai 30 minuti all'ora, sicuramente uno di questi tre allenamenti deve essere un allenamento basato sulla qualità, ma a qualsiasi età e a qualsiasi livello, perché comunque gli allenamenti di qualità e di alta qualità sono quelli che ci danno più adattamenti. E quindi il consiglio è di inserire sempre dei lavori di qualità, magari nel momento della settimana in cui siamo più liberi, sia di tempo che di pensieri, perché comunque più l'allenamento è intenso e più è qualificato e maggiore il tempo di recupero e quindi abbiamo bisogno anche di un ristoro più lungo, e quindi il consiglio è di metterlo come allenamento principale della settimana, come un po' i lunghi erano per la maratona. L'allenamento di qualità nel 10.000 è un po' il sale dell'allenamento principale, va posizionato in modo tale che tutta la settimana ruota intorno a questo evento. Poi i temi del lavoro di qualità vanno un po' declinati in base al livello. Se è la prima volta che faccio il 10.000, la qualità sarà correre forte 30 secondi. È già una buona qualità per quindi iniziare. Quindi mentre corriamo facciamo dei tratti un po' più veloci. Facciamo delle variazioni. Quello che si chiama fartlek. Quello che potrebbe chiamarsi anche fartlek. Se non ti piace. No, perché c'è un discorso legato al tempo di recupero, ma non scendiamo in tecnicismi che non fanno parte del nostro pubblico. Quindi iniziare con delle variazioni da 30 secondi, 40 secondi, possiamo arrivare fino a un minuto. Iniziamo facendone 4-5 fino ad arrivare a fare una decina per chi è la prima volta che fa della qualità. Mentre per quelli che sono già un po' più evoluti possiamo già lavorare non sul tempo ma sulle distanze e quindi cominciare a fare delle ripetute. Consiglio magari all'inizio di lavorare sui 400 metri di ripetute per poi salire fino a fare i famosi 1000 metri che sono una distanza un po' spauracchio per tutti quanti, e il consiglio è di iniziare con un volume adeguato alla mia capacità di recupero, cioè quindi all'inizio non chiedo al mio ragazzo o alla mia signora che viene per la prima volta a fare un allenamento di qualità di fare 10 volte 400, perché e quindi deve essere adeguato, già farne 4-5 sono già 2 km che è un quantitativo abbastanza significativo, invece in uno allenato può arrivare già a fare metà della distanza di gara in ripetuta come volume. Questa è un'indicazione molto pratica, no? Quindi già 5 fare volte 1000. 5 volte 1000 è già una bella ambizione, e la velocità naturalmente deve essere elevata. All'inizio nei 400 si chiede che sia una velocità che ci consenta di fare tutti e 5 più o meno la stessa velocità. Già questa è una consegna impegnativa, ti assicuro, perché solitamente si fa forte il primo e l'ultimo si arranca, invece dire cerca di gestire l'intensità in modo tale da mantenere uniforme l'intensità in ogni singola ripetuta, mentre per quello più evoluto il fatto di usare la distanza del 1000 che deve essere leggermente superiore alla distanza teorica che voglio pormi come obiettivo per il 10 km. La velocità. Sì, la velocità. E quanto sarebbe il recupero tra i 1000? Il recupero è abbastanza completo in questa fase, cioè più siamo lontani più facciamo un recupero grande, quindi se facciamo i 1000 il recupero deve essere almeno di 3 minuti, se facciamo i 400 il recupero deve essere almeno di 2 minuti, e mano a mano che ci avviciniamo diminuiamo un po' il recupero. Ecco, questa è un po' un'indicazione tecnica. Ci avviciniamo alla data della gara. Sì, più ci avviciniamo all'evento. All'evento, sì. Dobbiamo avere il modo di recuperare e a ogni ripetuta ripartire, insomma, come se fosse un po' più o meno. Come indicazione generale, sì. Cioè, non devo avere un recupero completo. Il recupero completo vuol dire che se faccio un 1000 in 4 minuti e mezzo, il recupero completo vuol dire che ho almeno il tempo di recupero della distanza che ho fatto. Quindi, se ho fatto 4 minuti e mezzo, completo vuol dire fare almeno 4 minuti e mezzo, quindi già il fatto di stare sui 3 minuti è un'indicazione che ci dà un minimo di sostanza. Francesca, un ascoltatore ci scrive: ho letto che per perdere peso devo correre al mattino e devo correre piano. Sì, l'ha letto perché si parla tanto dell'allenamento a digiuno per lo stimolo a bruciare i grassi, che è vero. Quindi l'allenamento a digiuno, a me piace, diciamo, pensarlo come finalizzato a stimolare il reclutamento dei nostri grassi a scopo energetico, quindi più per chi deve fare delle distanze lunghe. Però spesso viene interpretato in questo modo, quindi per bruciare i grassi devo correre a digiuno e devo andare lentamente. Ed è giusto, perché quando faccio un allenamento di questo tipo effettivamente vado piano, no? Generalmente sono allenamenti del genere. Però diciamo che lo posso fare, ed è vero, no? Quindi mi sveglio al mattino, che ho diverse ore di digiuno, quindi in cui le mie riserve di glicogeno muscolare si sono già in parte, diciamo, state intaccate. Inizio a correre e piano piano il mio corpo, in assenza di zuccheri, va a ricercare i grassi che ho a disposizione, quindi quelli, diciamo, i miei depositi, e quindi sono più stimolato in questo senso. Però è anche vero che da solo non basta questa pratica, quindi ancora una volta non è una scusa per dire ok, vado a correre a digiuno e poi magari dopo mangio tanto, perché non serve assolutamente a niente. Cioè il grasso, così come lo uso, lo rideposito senza problemi. Quindi per questo motivo mi piace di più interpretarlo in un altro modo, e più per chi fa delle distanze lunghe, quindi per aumentare la resistenza. Io non dico mai, se vuoi dimagrire vai a correre a digiuno, cioè, okay, non mi sembra abbia tanto senso. C'è un parametro di tempo dopo il quale, insomma, si inizia a lavorare sui grassi? Beh, diciamo che almeno un'oretta di allenamento dovrebbe essere. Quindi non anche perché andare a correre lentamente, poi dipende tutto dal livello di allenamento di ognuno di noi, no? Però è vero che un allenamento di questo tipo dura almeno 50 minuti, un'ora. Poi per chi non è abituato a correre può essere anche, vero Fabio, una corsa a cammino. Sì. Non per forza è quella che consigliamo sempre, anche esatto, durante i percorsi che abbiamo fatto per la maratona per i neofiti, appunto, era comunque avere una distanza totale almeno dai 45-50 minuti, anche alternando corsa a cammino, per mantenere la frequenza cardiaca abbastanza in controllo, perché altrimenti se la tengo troppo alta immediatamente vado a reclutare gli zuccheri che ho depositati. Noi il glicogeno l'abbiamo depositato nei muscoli, quindi vado a reclutare quello perché è di immediato utilizzo. Sì. Una ascoltatrice ci chiede che il suo sogno è fare la staffetta con alcune persone, alcuni colleghi dell'azienda, solo che lei non ha mai corso. Può, secondo te, provare a iniziare a camminare, appunto, velocemente, fare magari anche 4 volte alla settimana, e fino ad aprile riesce a fare magari la distanza più corta, che sono, mi sembra, 7 chilometri? Allora, se non ha mai corso, non ha mai fatto attività, è un po' che a digiuno dell'attività fisica, l'ultima volta che l'ha fatta era al liceo, quando faceva scienze motorie, perché il suo insegnante gliela faceva fare, e il consiglio è di camminare. E di camminare sempre più velocemente, e poi di iniziare ogni tanto a mettere dei tratti di corsa. L'avevamo fatto un percorso del genere un bel po' di puntate fa, magari nella camminata di un'ora metterci dentro 10 volte 30 secondi di corsa. E già questo è un primo stimolo, no? In modo tale che arrivo poi a completare 7 chilometri anche a passo svelto, che vuol dire più o meno posso farli in un'ora a passo svelto, quindi può essere già una cosa. E magari ogni tanto, quando mi sento, ci metto dentro la corsa, e quindi riesco a ridurre, stare magari sotto l'ora, già è un obiettivo quello di fare i 7 chilometri sotto un'ora, e così non sono presa in giro dai miei colleghi che magari partecipo, insomma, e poi magari stimolata dalla gara, così sicuramente fare l'emozione di vedere il pubblico, poi di avere un impegno, perché poi è un impegno rispetto agli altri, ai miei compagni di squadra è un impegno, per cui non posso mancarlo e deluderli. Ivana, che fa anche coaching, sa benissimo quanto vale, insomma, la staffetta, no? Per fare un po', usare la metafora dello sport e poi ritrovarla assolutamente. Poi, appunto, si inizia così per poi, appunto, iniziare a fare, avere un altro stile di vita, per poi cadere cominciare nel tunnel dell'allenamento e della corsa. Il passo è breve e poi dopo l'Ironman è in coma. Fabio, ne ho visti tanti, partire così e arrivare all'Ironman. Dalla staffetta all'Ironman. Sì. Perché è bello questo, è veramente il potere del cambiamento, no? Usando un termine da coaching, è il potere del cambiamento, il potere dell'azione, perché è inutile sognare se non c'è azione. Quindi l'azione è cominciare a camminare e metterci dei piccoli tratti di corsa, è la prima azione che dobbiamo fare. Ma pensa che io consiglio sempre: iniziate col fare le piccole cose, no? Quindi cambiare le abitudini, scendere a due fermate prima di metropolitana, sempre lo consiglio, iniziare così, camminare, fare le scale, non prendere eccetera. Più l'ascensore, è un'altra azione, no? Faremo un piano di allenamento di questo tipo la prossima volta. Potremmo fare un piano di allenamento di tutto quello che possiamo fare senza correre, per poter migliorare il nostro livello di fitness. Non è male. Invece, per chi è già chiuduto nel tunnel, Fabio, questo prodotto dell'anno è quello degli allenamenti in salita, un po' off-road, no? Quelli che si fanno un po' fuori strada, sullo sterrato. A cosa servono questo tipo di allenamenti? Almeno a me sono quelli che piacciono di più. In quelli che fanno dalla maratona al mezzo Ironman, quindi alle lunghe distanze, questo è il momento dell'anno in cui la possibilità di correre a lungo, a bassa intensità, in un ambiente naturale e usando anche le variazioni di altimetria che ci dà il bosco, la montagna, anche la montagnetta di San Siro, se siamo a Milano, sono uno stimolo incredibile per sviluppare al massimo le nostre capacità aerobiche, si chiamano tecnicamente, ma io dico anche le nostre capacità mentali di resilienza, perché solitamente parti facendo delle distanze più lunghe di quelle che normalmente avevi fatto in passato, e in modo tale da andare anche a scoprire qualcosa che va nella parte dello sconosciuto, no? E quindi ci permette di andare in quelle zone che non inesplorate della nostra esperienza, e che ci aiuta ad arrivare a un livello di conoscenza ma anche di consapevolezza più alto, e quindi il trail è fantastico. Poi ci dà anche l'opportunità di magari di variare un po' quelle che sono le nostre tradizionali strade di allenamento, che alla fine sono un po' monotone, quindi ci permette magari di prendere una strada non asfaltata che va nei campi, se siamo vicino a Milano, se siamo fuori Milano, anche se che va nei boschi, quindi ci permette veramente di trovare qualcosa di diverso, no? E dimentichiamo un po' l'orologio magari ogni tanto. Ecco, l'orologio lo dimentichiamo, teniamo magari un po' sotto controllo la frequenza cardiaca. Non deve essere di assillo, è normale che salga, perché se faccio una salita è normale che salga. Quindi il parametro che devo seguire è più che altro la cadenza, cioè il numero di passi che faccio, che non deve mai essere basso, quindi non deve mai scendere sotto i 160. E la frequenza cardiaca, che non deve mai essere eccessivamente alta, proprio perché se è troppo alta va a qualificare troppo l'allenamento e quindi non ha quel significato che invece deve avere in questa fase, che è di costruzione, di ampliamento delle nostre capacità e della conoscenza di noi stessi. Francesca, in distanze come una gara di 10 km abbiamo bisogno di gel o integratori? Dunque, sicuramente se ne può fare a meno, nel senso che è una gara o comunque una distanza breve. È vero che non sono vietati e dipende quindi dal singolo come usare gli integratori. Quindi, per esempio, ci sono persone che non riescono magari a fare colazione e quindi potrebbero mangiare una barretta prima della partenza, oppure magari c'è chi va fortissimo, ha fatto colazione 3 ore prima e vuol prendere un gel subito prima di partire. Quindi è vero che quella distanza lì si può fare a meno degli integratori, però non è vietato, ecco, assolutamente no. Stiamo parlando ovviamente di integratori energetici. Il tutto può essere sostituito con alimenti, quindi la colazione prima, che ovviamente deve essere adeguatamente digerita, e un recupero a base di alimenti, quindi di cibo, che può essere anche della frutta, un alimento proteico come un pezzo di formaggio subito dopo. Allora, siamo in chiusura e vorrei dire che non ci siamo dimenticati di tutti i nostri maratoneti e futuri maratoneti all'ascolto. Infatti sul sito di radio24.it, alla pagina di Personal Best, potete trovare un bellissimo piano di allenamento del coach Fabio Vedana, appunto, per prepararsi alle prossime maratone primaverili. Due piani di allenamento, uno per chiudere la prima maratona e l'altro un po' più sfidante, arrivare al traguardo della maratona in 3 ore e 30 minuti, sulla traccia, diciamo, del piano di allenamento che abbiamo fatto per l'ultima Venice Marathon. Nel frattempo, grazie a Francesca De Riu. Grazie a voi, buona giornata a tutti. E grazie al coach Fabio Vedana, a presto. Buona attività a tutti e buona corsa. E grazie a Filippo Auregi in regia. Noi per oggi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che l'appuntamento con Personal Best è ogni domenica su Radio 24 alle 6.30, alle 16.15, poi ovviamente quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona giornata. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.